she say, my. Questa sera cadono le stelle, ma forse questo non lo sai. Vieni con me, oh cielo che c'è. E dove vai così di fretta? C'è qualcuno che ti aspetta. Prenderò la chiave per my lady. Cosa ci ha uniti tutto il tempo? Io questo non lo so. Abbiamo condiviso anche un attimo, io questo non lo so. Prenderò la chiave per my lady, oh. Credevo di aver capito tutto di noi, gelido ha cancellato la speranza di un poi. Sono ancora qui a chiedermi perché non abbiamo mai tempo da sottrarre ad un nostro materiale disegno. Per my lady, cosa ci ha uniti tutto il tempo? Io questo non lo so. Cosa abbiamo condiviso anche un attimo? Io questo non lo so. Prenderò la chiave per my lady. Forse l'amore non conosce solo compromessi e non comprende tutti i nostri eccessi. Oh, oh. Condiviso anche un attimo, io questo non lo so. Prenderò la chiave per my lady.